cattivo. Che già mi chiamo nemico. Attivo l'odio che attiro. Capivo se ti coltivo, ma ti ho sorpreso. Tu vuoi fare il cattivo, ma io lo sono di più. Che già mi chiamo nemico, fra vedi solo un po' tu. Attivo l'odio che attiro, l'aggiungo al mio menu. Capivo se ti colpivo, ma ti ho sorpreso. Cucù. Sono me stesso diverso dagli altri, guardati indietro se non guardi avanti. Stammi vicino se poi vuoi schiantarti, perché la mia voce è risveglio dei morti. Faccio quello che mi pare, è un flow da paura. Tu dici no, va bene. Ma tuo flow, chi cazzo sei? La gente depressa vuole morire. Chi ti sente anche di più. Fai live, non sei un rapper. Insegno le rime a Gesù. Nel nome del padre, del figlio di Troia. Dio porco, Dio cane, mannaggia il signore. Puttana, madonna, mignotta, che gioia. Vedere tua mamma che grida il mio nome. Sono fuori di testa. Sono fuori con questa. Sono fuori per questa. Tu sei fuori, tu sei foresta, foresta. Sono fuori, sono di testa, testa. Sono fuori, con questa, questa. Sono fuori, con questa, questa. Tu sei fuori, tu sei foresta, foresta. Tu vuoi fare il cattivo, ma io lo sono di più. Che già mi chiamo nemico, fra vedi solo un po' tu. Attivo l'odio che attiro, l'aggiungo al mio menu. Capivo se ti colpivo, ma ti ho sorpreso. Cucù. Faccio ciò che sento, io non penso a cosa dici. A fare in questo modo non ti ho dato benefici. Sorella svuota, tu bifrate come dentifrici. Meno te, gli altri me, siamo tutti più felici. Faccio quello che mi pare fare, faccio a meno dei mi piace. Frate, l'ho già detto pure in altre strofe. Lo ripeto fino a quando vuole, lo ripeto pure in altre storie. Lo ripeto come nelle scuole. Non dico le cazzate, mica. Sono come te, c'è una mamma per amica. Quando ho trombato la tua tipa, mi sono perso nella figa. Ho perduto la lanterna, la cercavo sempre. Adesso è conosciuta come la lanterna verde. So sempre quello che mi serve. Un foglio, una penna, riposano le merde. Sono fuori, sono di testa, testa. Sono fuori, sono con questa, questa. Sono fuori, sono per fuori questa. Per questa. Tu sei fuori, tu foresta, fuori, foresta. Sono fuori, sono di testa, fuori, testa. Sono fuori con questa, questa. Sono fuori con questa, questa. Tu sei fuori, tu foresta, foresta.